Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, non so se oggi avete passeggiato nel bosco, ma di questo vi voglio parlare questa sera, di alberi e di boschi, e lo facciamo attraverso le parole, anche il cuore, di uno scrittore che si chiama Tiziano Fratus, un grande appassionato di spazi verdi, di alberografia, poeta, scrittore, fotografo, che ha scritto Ogni albero è un poeta, storia di un uomo che cammina nel bosco, è pubblicato da Mondadori, 238 pagine, 17 euro. L'autore si presenta così: ho trascorso parte del tempo che la vita mi ha concesso a sgranare gli occhi e i sensi ai piedi di grandi alberi ingrottati e butterati. Più erano grandi e deformi e più li cercavo con ossessione e desiderio. Per me un grande albero è arbor grammaticus, regolatore della vita e del tempo, re della foresta, memoria e testimone ultimo della storia di un pezzo di mondo. Quindi, come vedete, un rapporto particolarissimo con gli alberi e con il bosco, e con questo sentimento, con questo rapporto, con questa curiosità, Fratus compie qui un viaggio, o meglio ci offre la cronaca di una giornata scandita in alba, sole alto, ora viola, cioè il tramonto, nella quale l'autore vive a contatto con la natura, dormendo in tenda e scoprendo particolari imprevisti del rapporto con gli alberi e col bosco. Infatti, aggiunge l'autore, quando entro in una foresta evolvo a ogni passo, prima sono un esploratore, poi un taglialegna, divento fotografo, quindi viaggiatore nel tempo. Allora, che cosa ci può insegnare la sua esperienza? Che emozione ci può trasmettere? Lo chiediamo all'autore. Buonasera Tiziano Fratus. Buonasera. Tiziano Fratus, questo suo libro è più una cronaca di una sua, di un suo viaggio, di un suo itinerario in mezzo al bosco, con tutte le riflessioni che questa suscita, oppure un invito a tutti noi per intrattenere un rapporto diverso con gli alberi, con il bosco e con la natura in generale? Ma diciamo che è una visione, quindi è un intreccio di varie vene. C'è una vena narrativa, c'è una vena diaristica, cronistica, se vogliamo chiamarla così, come lei intendeva, c'è una vena citazionista, insomma ci sono molti spettri e molti mondi che si intersecano in queste pagine, ed è anche un invito ovviamente a coloro che hanno una sensibilità, una curiosità nei confronti della natura e dell'ambiente che possiamo in qualche modo attraversare. Ecco, parliamo allora del bosco. A un certo punto lei lo definisce una pagina piena di correzioni, e poi più avanti scrive che Dio ama correggere, quindi c'è un rapporto tra questa natura del bosco e Dio. In che senso? Ma ovviamente, come tante visioni, si tratta di immaginare il mondo che abbiamo attorno secondo un codice che in qualche modo ognuno di noi può riconoscere e decifrare. Allora, il bosco è fatto ovviamente da molte presenze, è un mondo dove tanti mondi coabitano ignorandosi l'un l'altro, e noi umani siamo alla fine gli unici esseri viventi che possono andare in questi mondi e riuscire a metterli in connessione l'un con l'altro. E quindi Dio ovviamente è questa presenza, assenza del paesaggio che abbiamo intorno, la nostra altezza, piuttosto che rispetto a una proiezione verticale del bosco e della foresta, del mondo che noi possiamo vedere in questa nostra dimensione di uomini che camminano nel tempo e si trovano immersi nel bosco, nella foresta. Nel suo libro però c'è anche la scoperta del regno animale, per esempio a un certo punto c'è un dialogo con il cervo volante che ci dà una grande lezione di umiltà e ci dice: voi umani sempre a chiedervi superiori di qua e superiori di là. È una scoperta che ha fatto anche lei nel bosco? Sì, da ultimo rispetto a miliardi di persone prima di me. Sì, sicuramente è così, noi abbiamo questa presunzione di distinguerci sempre dal resto della natura, c'è l'uomo e c'è la natura. Ovviamente già Darwin, ma anche prima di lui, sapevano ed erano ben consci del fatto che l'uomo è natura, quindi l'uomo è semplicemente un'evoluzione di tutte le forme viventi che abitano questo pianeta, non è al di sopra e non è di per sé meglio in quanto uomo, ha delle ricchezze, delle potenzialità che altri esseri viventi evidentemente non hanno, ma sappiamo che abbiamo anche la capacità di essere molto più distruttivi di qualsiasi altro essere che abbia mai abitato il pianeta. E nel bosco lei scrive: non c'è posto per l'Homo sapiens sapiens contabilis. Sì, è un auspicio, qui è proprio poesia, nel senso che oggi come oggi, visto che il bosco non è più la banca del contadino, la banca dell'uomo di montagna, come lo è stato per secoli, il bosco che resiste e che spesso è bosco riserva, bosco mondo naturale, conservato, tutelato, l'uomo lo attraversa ovviamente con un altro spirito, con una ricerca di spiritualità, con una ricerca di ritrovare se stesso, un ritmo più vivibile, più riscoprire quello che magari la vita di tutti i giorni va a nascondere o va a camuffare. E quindi l'attraversamento del bosco in qualche modo estingue per poche ore o per il tempo necessario quell'uomo contabilis che in qualche modo siamo diventati dovendo aggiustare mille cose nella nostra vita quotidiana. Un'altra definizione che dà del bosco è del bosco come il più grande cervello del mondo, un'immensa ragnatela. Che cosa produce questo cervello? Ma diciamo che produce innanzitutto l'interazione di tutte le vite che abitano e coabitano all'interno di questo bosco. Quindi si tratta di un'immensa catena dove tutti gli esseri viventi, senzienti, non senzienti, che abbiano l'anima o meno, comunicano fra di loro. Quindi è come se ci fosse un solo grande pensiero che macina all'interno di quel bosco. Ecco, lei conclude il capitolo dedicato all'alba con una preoccupazione: un giorno gli alberi ci abbandoneranno. È una preoccupazione reale o figurata? In fondo in Italia, in molte zone, il bosco sta avanzando, non sta retrocedendo. Sì, è un bosco però che avanza perché l'uomo si è ritirato. La maggior parte del bosco che è cresciuto è il bosco dei pascoli di montagna che non sono più gestiti. Quindi anche un bosco, se vogliamo, molto disordinato, molto caotico, occasionale. Non è il bosco che cos'è, che molti di noi si figurano, no? La pineta piuttosto che la faggeta, che ha un suo ordine, una sua geometria, una sua estetica. Gli alberi ci abbandoneranno, dipenderà molto da noi. Molto temo che sia molto più facile che sia l'uomo che a un certo punto distruggerà quello che ha intorno, perché comunque l'andamento anche economico sembra andare in direzione, e quindi gli alberi in qualche modo, forse gli alberi, cioè la natura, l'unico modo che avrà forse per sottrarsi sarà quello di superarci, perché noi non siamo fondamentali per il pianeta, facciamo parte delle tante esseri viventi che vivono su questo pianeta, ma il pianeta a un certo punto, quando è in crisi, produce una febbre, questa ovviamente è un'immagine figurata, ma comunque si libererà anche di tutti coloro che in qualche modo mettono a rischio l'esistenza stessa del pianeta. Lei ha detto che questo suo libro è anche un libro di citazioni, e in effetti ci sono molte incursioni nella poesia. Per esempio, a un certo punto dice che si chiede: gli alberi sono poeti o i poeti sono destinati a farsi albero? Lei che risposta si è dato? Io spero che i poeti siano destinati a farsi tutti albero, è un augurio ovviamente, sia per superare il limite della nostra vita, che ovviamente è un limite che prima o poi angoscia, credo, qualsiasi essere umano, e dall'altra parte anche l'idea che comunque ogni, così come ogni albero semina i propri semi e quindi raggiunge una forma di replicazione, di diffusione, diciamo di eternità, ma usata in maniera molto più laica. Così un poeta si augura di lavorare così bene da riuscire a seminare le parole, i concetti, le immagini che riesce a creare durante la sua vita. Sempre in tema letterario, lei ha definito la lingua come un continente boscoso, ha fatto un paragone tra l'italiano in particolare e il bosco. Sì, perché l'italiano è un continente linguistico dove l'italiano, cioè la lingua italiana standard, ovviamente è una, è uno dei suoni, è una delle note del pentagramma, che qui non è soltanto penta, ma ovviamente è molto più ampio. E poi ci sono tutti i dialetti che poi cambiano da paese a paese, non è soltanto il piemontese o il veneto, perché ovviamente esistono tutta una serie di varianti. E quindi tutto questo continente misto crea l'italiano misto fra l'italiano da scuola, diciamo, e tutti i dialetti, tutti i vernacoli che sono ancora diversi dai dialetti, che compongono un po' la nostra cultura verbale. E quindi potremmo dire che un libro è una ghianda di questo continente boscoso. Nei casi migliori probabilmente sì. Bene, grazie a Tiziano Fratus, autore di Ogni albero è un poeta. Buona serata. Buonasera a lei. Un regista che ha trattato con profonda poesia il tema del rapporto tra l'uomo e l'ambiente è Giorgio Di Ritti, che è autore del film Il vento fa il suo giro, poi ha fatto L'uomo che verrà, Un giorno devi andare. Il primo, come ricorderete, è un film di 10 anni fa che diventò un caso perché fu realizzato con pochi soldi e invece poi fu pluripremiato in tutto il mondo grazie al passaparola, è diventato anche molto popolare. Al Cinema Messico di Milano è stato trasmesso per quasi 2 anni. Adesso ho scritto un libro, L'uomo fa il suo giro, storie di condivisioni dentro e fuori del set, pubblicato dalla Terza, 100 pagine, 12 euro. E qui sono le riflessioni di un cineasta che ha ricevuto molti no, come ci spiega lui stesso, perché i soggetti che proponeva non risultavano popolari, almeno per molti produttori cinematografici, risultavano piuttosto dissonanti rispetto ai gusti del pubblico. Col risultato, scrive l'autore, che con la scusa che siano i gusti del pubblico a determinare e richiedere un certo tipo di prodotto, si è creato quello che ormai è un circolo vizioso. C'è da chiedersi se ad alimentarlo abbia contribuito, anche se involontariamente, la debolezza di quel cinema d'autore quando si rinchiude su una certa autoreferenzialità. E qui nel libro ci parla dei suoi film a partire da quello che gli ha dato il successo e che naturalmente non ebbe gestazione facile proprio per la premessa di cui abbiamo parlato. Infatti scrive l'autore, un film ambientato in un piccolo paese di montagna che ha per protagonisti capre e pastori che parlano un dialetto quasi incomprensibile. A chi può interessare? Questa è la risposta più frequente che riceveva. E questo film invece si fece, e si fece proprio grazie alla condivisione di parole e di intenti, e delle tante altre condivisioni, scrive Di Ritti, che successivamente si sono susseguite. E quindi il libro è anche un inno a una vita buona e bella, come scrive l'autore, che permetta di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni, un lavoro, una famiglia, la gratificazione di chi mantiene solidi i propri affetti, tutti obiettivi, conclude, che possiamo raggiungere più facilmente se cogliamo al volo l'occasione di contribuire al miglioramento della vita degli altri e se mettiamo in atto la condivisione. E a questo punto ci interrompiamo per un momento, ci sentiamo tra qualche istante. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Genta. Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo, programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Oggi e domani ricordiamo il 40° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, che fu ucciso a Ostia nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975. Pasolini fu regista, poeta, scrittore, ma soprattutto fu un intellettuale controcorrente, capace di prese di posizioni spesso urticanti non solo presso i ben pensanti dell'epoca, ma anche per l'establishment culturale e per l'intelligenza di sinistra alla quale pure Pasolini apparteneva. E Guanda lo ricorda con 3 libri curati da Nico Naldini, di cui 2 di ambientazione friulana. Pasolini infatti era nato a Bologna, ma aveva vissuto molti anni in Friuli, a Casarsa, da dove proveniva la madre, dove insegnò per un breve periodo, fin quando non fu denunciato per corruzione di minorenni ed espulso dai ranghi sia dell'insegnamento che del Partito Comunista, al quale partito si era iscritto nel frattempo. Tra parentesi, dopo vari anni Pasolini fu assolto per insufficienza di prove da uno dei reati di cui era stato accusato e nemmeno portato in giudizio per il secondo. Sentiamo dalle voci di Pasolini qual è stato il suo rapporto con il Friuli. Io ho preso il Friuli per una specie di piacevole e nel stesso tempo tragico esilio, una specie di prigione dove compiere gli atti e le operazioni del mio narcisismo in mezzo ai gelsi, alle vigne e ai prati verdi del Friuli, e nel tempo stesso un luogo dove covare il dolore per la morte di mio fratello, che era venuto un anno prima, proprio alla fine della guerra, era partigiano. E queste parole di Pasolini ci introducono al libro Un paese di temporale di Primule, 334 pagine, 18 euro. Qui troviamo una lunga introduzione di Naldini che ci illustra i primi passi di Pasolini intellettuale, quando si afferma appunto in Friuli come una figura molto significativa, e vengono pubblicati nel libro vari scritti del periodo 1945-1951 che erano apparsi su giornali e riviste veneti e friulani. I temi principali sono quattro: temi letterari e linguistici, il tema dell'autonomismo, i temi legati all'esperienza di insegnante di Pasolini e poi alcuni testi inediti completano il volume. L'altro libro, sempre di ambientazione friulana, è Romance, un racconto lungo, sempre pubblicato da Guanda, 202 pagine, 15 euro. Questa è una descrizione della società friulana del dopoguerra, un racconto nato all'interno del progetto di un romanzo che si sarebbe dovuto intitolare La meglio gioventù e che invece venne pubblicato con un altro titolo. Fu scritto alla fine degli anni 40. Il protagonista è un prete, un giovane prete, Don Pietro, che scoprirà la difficoltà di esercitare il proprio ministero in condizioni sociali ed economiche così difficili, soprattutto in quegli anni del Friuli, e in contraddizione soprattutto con le proprie passioni e i sentimenti che nutre per un ragazzo. E poi nel libro troviamo due scritti ulteriori, un racconto che si intitola Un articolo per il progresso e Operetta marina, che è uno scritto di carattere autobiografico che parte proprio da Sacile, un'altra delle città del Friuli dove Pasolini aveva vissuto. Nico Naldini e Francesco Zamboni infine hanno selezionato delle poesie di Pasolini, poesie scelte, sempre pubblicato da Guanda, 220 pagine, 18 euro. Qui troviamo alcune opere più giovanili, per esempio la raccolta dell'usignolo della Chiesa Cattolica, alla quale seguirà una delle più celebri raccolte di Pasolini, cioè Le ceneri di Gramsci, ambientate ormai a Roma, dove Pasolini scoprirà a partire dagli anni 50, quando vi si trasferisce, tutto un altro mondo. Scrivono i curatori: l'arrivo a Roma fu la rivelazione di un'umanità degradata e vitale, innocente e violenta, ferma quasi per incanto a tempi originari e la cui esistenza si svolgeva quasi al di fuori della storia, in una sorta di oscura e barbarica preistoria. Alla fine del libro troviamo un articolo in versi che è molto celebre, perché fu quello nel quale Pasolini prese le distanze dalla violenza della contestazione che se l'era presa a Valle Giulia in una famosa giornata del 68 con la polizia. E Pasolini probabilmente di quella contestazione aveva colto un aspetto, quello che poi avremmo chiamato la componente radical chic. E sentite con che parole bollò i contestatori di allora. È triste. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, figli, e non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come credo ancora si dica nel linguaggio delle università, il culo. Io no, amici. Avete facce di figli di papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete paurosi, incerti, disperati, benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Prerogative piccolo borghesi, amici. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi. Le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria, che non dà autorità. I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo, di eletta tradizione risorgimentale, di figli di papà, avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale. A Valle Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe. E voi, amici, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria dunque la vostra. In questi casi ai poliziotti si danno i fiori, amici. di Renzo Paris, che è un poeta e un francesista. Elliot pubblica Pasolini, ragazzo a vita, 188 pagine, 18,50 euro. Questa non è una vita di Pasolini, ma una testimonianza di una lunga amicizia ripercorsa a flash. Esperienze di oggi riportano Paris a rievocare Pasolini, ripercorrendo anche il tragitto verso il luogo dove lo scrittore fu assassinato e rievocando quel drammatico 2 novembre, quando Paris andò su quella spiaggia assieme a Moravia. E viene rivisitata e ripercorsa naturalmente la Roma di Pasolini, e l'autore ricorda le dure prese di posizione di Pasolini. Pasolini scrive: aveva voglia di riscrivere tutta la sua opera sotto il segno del deserto che vedeva crescergli intorno, la sua purezza, la sua ingenuità che aveva visto nelle facce dei poveri, dove erano finite? E questo spiega come mai, sempre secondo l'autore, Pasolini si fosse incanaglito sempre di più. Cito dal suo libro: picchiava e si faceva picchiare da quei ragazzi che una volta aveva creduto pieni di seme di amore. Il mondo, il suo mondo, era crollato come cartapesta, e denunciare i disagi del nuovo capitalismo, come suggeriva il suo amico Moravia, gli sembrava cosa per arresi. La morte di Pasolini suscitò, come ricorderete, molte polemiche, che non mancarono nemmeno i sospetti su complotti misteriosi. È un segreto italiano, è il sottotitolo del libro su Pasolini, sulla sua morte, di cui adesso vi parlo. L'autore è Carlo Lucarelli, intitolato PPP, Pasolini, un segreto italiano, pubblicato da Rizzoli, 220 pagine, 15 euro. Questo non è un libro complottistico, ma è un'opera che cerca di collocare l'uccisione di Pasolini all'interno del clima sociale politico che lo stesso scrittore continuava in quegli anni a denunciare, un clima torbido punteggiato da una violenza che sembrava inarrestabile. Insomma, eravamo, scrive l'autore, un paese violento, dominato da molti misteri. E Lucarelli, tra l'altro, torna proprio su quell'episodio di Valle Giulia di cui abbiamo parlato quando vi ho fatto sentire i versi di Pasolini, e la reazione dello stesso autore giovanissimo. E infatti, rivolgendosi quasi a Pasolini, Lucarelli scrive: dunque, aspetta, se gli studenti sono fighetti figli di papà avvocati, notai, industriali, ministri, e i celerini sono poveracci figli di poveracci, ma gli studenti protestano in nome di una maggiore giustizia sociale e i celerini gli spaccano la testa per ordine di quei papà avvocati, notai, industriali, ministri, fermo, non torna più niente. Il caos, appunto. L'autore si definisce un giallista, anzi, per completezza, si definisce un giallista pistarolo, complottista e dietrologo di natura, e quindi non esclude che nella morte di Pasolini il segreto ci sia, magari legato al suo ultimo libro, Petrolio. La prima giornalista a giungere sul luogo del delitto, che colse dei particolari che poi furono ignorati nelle inchieste ufficiali, è Lucia Visca, che scrisse un libro che adesso ritorna, Pierpaolo Pasolini, una morte violenta, è pubblicato da Castelvecchi, 128 pagine, 14,50 euro. E un'altra grande giornalista che si misurò con questa questione fu Oriana Fallaci, che con Pasolini ebbe un rapporto che potremmo definire di amore-odio, ma che si impegnò molto in varie inchieste sul giornale al quale allora collaborava, cioè l'Europeo, proprio per scandagliare quelli che erano gli aspetti più oscuri dell'uccisione di Pasolini. E queste corrispondenze sono pubblicate adesso da Rizzoli col titolo Pasolini, un uomo scomodo, 122 pagine, 17 euro. Infine vi segnalo un libro a fumetti, Un colloquio impossibile con Pasolini, di Davide Toffolo, che pubblica appunto un fumetto che si intitola Pasolini, è pubblicato da Rizzoli Lisar, 20 euro, in cui troviamo un Pasolini redivivo che attraverso i suoi scritti dialoga con l'artista e rievoca la propria vita con parole e immagini, queste ultime di grande efficacia. Ultimi arrivi. Vi segnalo un altro giallista, Gianni Biondillo, che torna con il suo personaggio dell'ispettore Ferrario, impegnato nell'indagine che è la trama dell'Incanto delle Sirene, pubblicato da Guanda, 332 pagine, 18 euro, e ambientato in una Milano contemporanea, caratterizzata per esempio dal flusso degli immigrati, dalla centralità del sistema della moda nel cui ambiente avviene il delitto di cui parla il libro, ma anche dal sottobosco della nuova malavita. Poi un altro nome celebre, Walter Veltroni, che ha scritto Ciao, pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 18,50 euro, nel quale rievoca la carriera e l'ambiente in cui visse il padre, che fu uno dei personaggi più significativi della radio, nella storia della radio italiana, morto giovanissimo. E infine vi segnalo un romanzo sull'evoluzione dell'Italia negli ultimi 30 anni, quello di Chiara Passilongo, che è un esordiente che ha scritto La parabola delle stelle cadenti, pubblicata da Mondadori, 378 pagine, 18,50 euro, che è la storia di due gemelli la cui vicenda riassume le trasformazioni in particolare del nord-est e del suo ambiente imprenditoriale. E a questo punto il confettino. Cari genitori, se cercate una lettura per far addormentare i bambini, dovete acquistare Il coniglio che voleva addormentarsi di Carl Johan Forsén Erling, che è uno scrittore svedese, anzi non è uno scrittore, è un esperto di scienze comportamentali. E il sottotitolo del libro è esplicito, Il nuovo modo di far addormentare i bambini, pubblicato da Mondadori, 14,90 euro, tradotto da Laura Cangemi, illustrato da Irina Maunumen. Questo è un libro espressamente consigliato appunto per fare addormentare i bambini, non perché il libro sia noioso, ma perché è scritto in maniera tale che attraverso delle tecniche di rilassamento verbale e visive l'effetto soporifero dovrebbe realizzarsi. Provare per credere. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona serata.